Quando si saluta un giapponese, gli si chiede: come sta il tuo chi? So this exercise is taken more from the Tibetan tradition. Questi esercizi sono presi per lo più dalla tradizione tibetana. So now you have to imagine, it doesn't have to be a strong visualization. Noi dobbiamo immaginarci, ma non deve per forza essere una forte visualizzazione. Just imagine coming down from above a funnel of light, a shaft of light. Semplicemente immaginiamo che dall'alto venga giù un rivoletto di luce. Give it a color. Diamogli un colore. A color can be something which you feel is healing or invigorating. Un colore può essere qualcosa che significa che è qualcosa che guarisce o che rinvigorisce. As it comes down, it falls a ball just above your head. E mentre scende giù, arriva proprio sopra la vostra testa. A ball, pallo, a ball. Ah, una palla, si forma una palla proprio sopra la vostra testa. And as it enters the ball takes on the quality of water or oil. E mentre entra nella palla, la palla assume la qualità di acqua o olio. Whatever you wish. Quello che vi piace di più. And the ball begins to rotate. E la palla comincia a roteare. So here we have just above our heads. Here we have just above our heads. Just above? Just above the head, yes, ah, the ball. Ok, quindi abbiamo qui, subito sopra la testa, a ball which is gently rotating. Una palla che lentamente, gentilmente rotea. It has a color. Ha un colore. And it has a feeling. E ha una sensazione. Let the ball now just touch the top of the head. Lasciate ora che questa palla tocchi la cima della vostra testa. And just see if you can visualize or see or feel those qualities. E guardate se potete visualizzare o vedere o sentire queste qualità. So the light is still coming down from above into the ball. La luce sta ancora scendendo giù dall'alto dentro la palla. And this ball now just begins to descend down into the head. E la palla ora comincia lentamente a scendere dentro la testa. The light still pouring down from above. La luce ancora scende giù dall'alto. The ball now opens up over the shoulders. La palla ora si apre sopra le spalle. And begins to descend into the chest. E comincia a scendere nel torace. Still coming down from above, this shaft of light. Ancora scende giù dall'alto questo raggio di luce. Down through the head into this ball. Giù nella testa dentro questa palla. And the ball now rotates and sinks down into the stomach liver area. E la palla piano piano scende roteando nell'area dello stomaco e del fegato. Don't forget the spine and the arms. Non scordatevi della colonna vertebrale delle braccia. Still pouring down from above. Ancora scorre dall'alto. This light, la luce, down through the head, in down through the body, into this ball. Giù nella testa, dentro il corpo, dentro questa palla. And the ball now descends into the abdomen. E la palla ora scende nell'addome. Don't forget the spine and the arms. E non scordatevi della spina e delle braccia. Still pouring down from above. Ancora si riversa dall'alto. This light coming down through the head, down through the body, into the ball. Questa luce che va giù nella testa, poi giù per il corpo e dentro la palla. Let the ball now finish its journey all the way down through the legs. E ora la palla finisce il suo viaggio. Fino in fondo alle gambe. So now, with the in-breath, e ora, con l'inspiro, draw the energy from the ball all the way up the body to the top of the head. Spingiamo l'energia dalla palla su per il corpo fino alla cima della testa. And with it, our own energy. E insieme a questa la nostra stessa energia. Then with the out-breath, e con l'espiro, and with new energy from above, arriva nuova energia dall'alto. Let it all cascade down the body with the out-breath. E questa scende giù come una cascata per il corpo con l'espirazione. Breathing in up, breathing out down. Inspirando va verso l'alto, espirando verso il basso. If there's a part of the body needs special attention, let the energy go through that, like water through a sponge. Se c'è una parte del corpo che necessita di una particolare attenzione, lasciamo che l'energia vada verso quella come acqua in una spugna. So now we can share these energies with each other. Ora possiamo condividere queste energie tra di noi. With the in-breath, receive energy from your neighbor on the left. Con l'inspirazione riceviamo l'energia dal nostro vicino che ci sta a sinistra. Draw this energy into the body. Portiamo, spingiamo questa energia dentro al corpo, where it joins with energy from above and our own energy. Dove si riunisce all'energia che viene dall'alto e alla nostra propria energia. It's like blowing up a balloon. È come gonfiare un pallone. And then, with the out-breath, offer it to your neighbor on the right. E poi, con l'espirazione, offriamola al nostro vicino, alla nostra destra. And before the in-breath begins again, e prima che l'inspirazione cominci di nuovo, follow that energy all around the circle. Seguiamo questa energia tutto intorno al cerchio. Just breathing in, semplicemente inspirando, breathing out, espirando. Follow the breath. Seguiamo il respiro. Drawing these three energies into the heart center with the in-breath. Facendo crescere queste energie nel centro del cuore con l'inspirazione. Drawing them in, bringing them in. Bringing the three energies into the heart center. Portiamo le tre energie dentro il centro del cuore. We can offer it outward towards somebody whom we know is sick or dying. Possiamo offrirle verso fuori, verso coloro che sappiamo che sono malati o che stanno morendo. Just breathing in and breathing out. Con l'inspirazione e l'espirazione. And finally, we can offer our good will to all beings in all directions. E per finire possiamo offrire la nostra benevolenza a tutti gli esseri in tutte le direzioni. May all beings be free of physical pain. Possano tutti gli esseri essere liberi dal dolore fisico. May all beings be free of mental distress. Possano tutti gli esseri essere liberi da malattie mentali e stress mentale. May all beings be liberated of all their sufferings. Possano tutti gli esseri essere liberati da tutte le loro sofferenze. May all beings live in peace and joy. Possano tutti gli esseri vivere in pace e in gioia. May all beings live together in peace and harmony. Possano tutti gli esseri vivere insieme in pace ed armonia. May all beings experience the peace and bliss of Nirvana. Possano tutti gli esseri fare esperienza della pace, della beatitudine e del Nibbana. May all beings be happy. Possano tutti gli esseri essere felici. Sabbe sata sukhita hontu. Sabbe sata sukhita hontu. Sabbe sata sukhita hontu. Sadhu, sadhu, sadhu.